Così stavano le cose alla fine del 1845, quando la flotta commerciale marittima della Gran Bretagna assegnò a Valparaiso un cappellano che si occupasse delle esigenze spirituali dei protestanti. Quest'ultimo si mostrò seriamente intenzionato a sfidare i cattolici, a costruire una solida chiesa anglicana e a infondere nuova forza alla comunità. Il suo primo atto ufficiale fu la disamina dei conti del progetto di missione in Terra del Fuoco, di cui non si intravedeva alcun risultato. Jacob Toad si fece invitare in campagna da Agustin del Valle, sperando di dare così tempo sufficiente al nuovo pastore per scoraggiarsi, ma quando ritornò 2 settimane dopo, constatò che il cappellano non si era dimenticato della faccenda. Per un certo periodo Toad inventò nuovi pretesti per evitarlo, ma alla fine, dovette affrontare un revisore e poi una commissione della Chiesa anglicana. Si aggrovigliò in spiegazioni che divennero sempre più fantasiose a mano che i numeri provavano con disarmante evidenza l'ammanco. Restituì i soldi rimasti sul conto, ma la sua reputazione subì un irrimediabile tracollo. Le riunioni del mercoledì a casa Somers per lui erano finite e nessuno della colonia straniera tornò a invitarlo. Per strada lo evitavano e chi aveva affari in corso con lui li diede per conclusi. La notizia della frode raggiunse gli amici cileni che gli suggerirono in modo discreto ma risoluto di non frequentare più il club dell'Unione se desiderava evitare l'onta dell'espulsione. Non lo accettarono più alle partite a cricket né al bar dell'Hotel Inglés. Si trovò improvvisamente isolato e persino i suoi amici liberali gli voltarono le spalle. La famiglia del Valle in blocco gli tolse il saluto, salvo Paolina, con la quale Toad mantenne uno sporadico rapporto epistolare. Paolina aveva avuto il primo figlio al nord e dalle sue lettere trapelava soddisfazione per la vita coniugale. Feliciano Rodriguez de Santa Cruz, sempre più ricco, stando a quanto si diceva, si era rivelato un marito fuori dal comune. Era convinto che l'audacia da lei dimostrata nella fuga dal convento e nel modo in cui aveva piegato la famiglia per poterlo sposare non andasse diluita in faccende domestiche, bensì sfruttata a beneficio di entrambi. Quella moglie, educata come una vera signorina che a stento sapeva leggere e far di conto, aveva sviluppato un'autentica passione per gli affari. In un primo momento il suo interessarsi ai particolari dei processi di estrazione e di trasporto dei minerali, così come all'andamento della borsa, avevano stupito Feliciano, che però aveva presto imparato a tenere in considerazione lo straordinario intuito della moglie. Grazie ai suoi consigli, dopo 7 mesi di matrimonio, realizzò ingenti guadagni speculando sullo zucchero. Con gratitudine, la omaggiò di un servizio da tè d'argento lavorato in Perù, che pesava 19 chili. Paolina, che a causa della compatta protuberanza del ventre costituita dal primo figlio riusciva a muoversi a malapena, rifiutò il regalo senza sollevare gli occhi dalle scarpine che stava lavorando a maglia. Preferisco che tu apra un conto corrente a mio nome in una banca di Londra e che da adesso in poi versi il 20% dei profitti che otterrò per te. Ma perché? Non ti do forse tutto quello che desideri e molto di più? Chiese Feliciano piccato. Oh, la vita è lunga e piena di imprevisti. Non vorrei mai essere una vedova povera e per di più con prole, spiegò lei toccandosi la pancia. Feliciano uscì sbattendo la porta, ma il suo innato senso della giustizia ebbe la meglio sulla contrarietà del marito offeso. Inoltre pensò, quel 20% per Paolina sarebbe stato un efficace incentivo. Fece quello che chiedeva, nonostante non avesse mai sentito parlare di una donna maritata con un patrimonio a proprio nome. Se una sposa non poteva viaggiare da sola, firmare documenti legali, ricorrere alla giustizia, vendere o comprare senza l'autorizzazione del marito, men che meno poteva disporre di un conto corrente da usare a suo piacimento. In banca e ai soci non sarebbe stato semplice da spiegare. Venga al nord con noi, il futuro è nelle miniere, lì può iniziare da capo, suggerì Paolina a Jacob Toad quando, durante una delle sue brevi visite a Valparaiso, venne a sapere che era caduto in disgrazia. Amica mia, e lì cosa potrei fare? Mormorò quest'ultimo. Vendere Bibbie, disse Paolina in tono burlone, ma immediatamente commossa dalla profonda tristezza di Toad, gli offrì la sua casa, la sua amicizia e un lavoro nelle imprese del marito. Todd, tuttavia, era talmente scoraggiato per la cattiva sorte e la pubblica vergogna che non trovò le forze per intraprendere una nuova avventura al nord. La curiosità e l'inquietudine che prima lo sospingevano erano state sostituite dall'ossessione di recuperare il buon nome perduto. «Sono rovinato, signora, non lo vede? Un uomo privo di onore è un uomo morto». «Oh, i tempi sono cambiati», lo rincuorò Paolina. «Prima l'onore infangato di una donna si lavava solo con il sangue, ma come ben sa, Mr. Toad, nel mio caso, è stato lavato da una brocca di cioccolata. L'onore degli uomini è molto più resistente del nostro, non si disperi». Feliciano Rodriguez de Santa Cruz non aveva dimenticato il suo intervento ai tempi dell'amore frustrato con Paolina. Decise di prestargli del denaro affinché potesse restituire fino all'ultimo centesimo i soldi delle missioni. Ma Toad pensò che tra essere in debito con un amico o con il cappellano protestante, preferiva esserlo con quest'ultimo, visto che comunque la sua reputazione era già andata in pezzi. Nel giro di poco tempo fu costretto a congedarsi dai gatti e dalle torte perché la vedova inglese della pensione lo cacciò con una sequela interminabile di recriminazioni. La buona signora aveva raddoppiato gli sforzi in cucina per finanziare la diffusione della fede in quelle regioni dall'inverno sempiterno dove un vento spettrale ululava giorno e notte, come diceva Jacob Todd, ebbro di eloquenza. Quando venne a sapere che la destinazione dei suoi risparmi erano le mani del falso missionario, giustamente montò su tutte le furie e lo sbatté fuori di casa. Grazie all'aiuto di Joaquín Andieta, che gli trovò un altro alloggio, si trasferì in una camera piccola ma con vista sul mare in uno dei modesti quartieri del porto. La casa era di proprietà di una famiglia cilena che non aveva le pretese europee di quella precedente. Si trattava di un vecchio edificio di mattoni imbiancati a calce e dal tetto di tegole rosse, composto da un ingresso, una grande stanza quasi priva di mobili che fungeva da sala, tinello e camera da letto dei genitori, una più piccola e senza finestre, in cui dormivano tutti i bambini e un'altra in fondo da affittare. Il proprietario era maestro di scuola e la moglie contribuiva al bilancio fabbricando artigianalmente candele in cucina. L'odore di cera impregnava la casa e Todd ritrovava quell'aroma dolciastro nei libri, negli abiti, nei capelli e perfino nell'anima. Gli era talmente penetrato nella pelle che ancora molti anni più tardi, dall'altra parte del mondo, avrebbe continuato a sapere di candele. Frequentava solo i bassi fondi del porto, dove a nessuno poteva interessare la reputazione buona o cattiva di un gringo dai capelli rossi. Mangiava nelle osterie dei poveri e passava intere giornate con i pescatori ad affannarsi con reti e scialuppe. L'esercizio fisico gli faceva bene e per qualche ora riusciva a dimenticare l'orgoglio ferito. Solamente Joaquín Andieta continuava a fargli visita. Si chiudevano in camera a discutere di politica e a scambiarsi testi di filosofi francesi, mentre dall'alto lato della porta i figli del maestro scorrazzavano e la cera delle candele si liquefaceva come un filo d'oro fuso. Joaquín Andieta non accennò mai ai soldi delle missioni, per quanto non potesse ignorare la faccenda, dato che per settimane lo scandalo era stato commentato a gran voce. Quando Todd cercò di spiegargli che non aveva mai avuto intenzione di truffare qualcuno e che era stato semplicemente vittima della sua scarsa predisposizione per i numeri, del suo proverbiale disordine e della sua cattiva stella, Joaquín Andieta, ricorrendo al codice universale, si portò un dito alla bocca e l'invitò a tacere. In un attacco di vergogna e affetto, Jacob Todd lo abbracciò goffamente e l'altro lo strinse per un attimo, ma immediatamente si separò in modo brusco, arrossendo fino alle orecchie. Entrambi indietreggiarono simultaneamente, frastornati, incapaci di comprendere come avessero potuto violare l'elementare regola di comportamento che proibisce ogni sorta di contatto fisico tra uomini, salvo che in battaglia o negli sport violenti. Durante i mesi successivi l'inglese andò alla deriva, si disinteressò del suo aspetto e iniziò a vagare con una barba di più giorni emanando odore di candele e di alcol. Quando con il gin passava la misura, inveiva come un ossesso senza prendere fiato contro i governi, la famiglia reale inglese, i militari, i poliziotti, il sistema dei privilegi di classe paragonato a quello indiano, delle caste, la religione in generale e il cristianesimo in particolare. «Deve andarsene di qui, Mr. Toad, sta uscendo di senno», osò dirgli un giorno Joaquín Andieta, dopo averlo recuperato in una piazza proprio quando una guardia stava per portarselo via. Esattamente in queste condizioni, mentre predicava come un demente in una strada, lo trovò il capitano John Somers che già da diverse settimane era sbarcato in porto dalla sua goletta. L'imbarcazione aveva subito gravi danni durante la traversata per Capo Horn e doveva essere sottoposta a lunghe riparazioni. John Somers aveva trascorso un mese intero in casa dei fratelli Jeremy e Rose. Ciò lo fece decidere a cercare lavoro su uno di quei moderni bastimenti a vapore, non appena fosse tornato in Inghilterra, perché non era disposto a ripetere l'esperienza di prigionia nella gabbia familiare. Amava i suoi cari, ma li preferiva a una certa distanza. Fino ad allora aveva resistito alla tentazione dei piroscafi perché non concepiva l'avventura per mare senza la sfida delle vele e del clima che mettesse alla prova la buona stoffa di un capitano. Ma alla fine dovette ammettere che il futuro stava nelle nuove imbarcazioni più grandi, sicure e rapide. Quando si accorse che stava perdendo colpi, naturalmente diede la colpa alla vita sedentaria. Ben presto la noia iniziò a pesargli come un'armatura e prese a fuggire da casa pur di passeggiare per il porto con l'impazienza di un animale in gabbia. Quando riconobbe il capitano, Jacob Toad abbassò l'ala del cappello e finse di non vederlo per risparmiarsi l'umiliazione dell'ennesima dimostrazione di disprezzo, ma l'uomo di mare lo trattenne con decisione e lo salutò con affettuose pacche sulle spalle. «Mio caro amico, andiamo a farci un goccetto» e lo trascinò in un bar vicino. Si rivelò essere uno di quei posticini del porto noto tra gli avventori per le bevande oneste, dove tra l'altro veniva offerto un piatto unico dalla fama ben meritata, grongo fritto con patate e insalata di cipolla cruda. Toad, che in quei giorni si dimenticava spesso di mangiare ed era sempre al verde, odorò il delizioso profumo del cibo e fu sul punto di svenire. Un'ondata di gratitudine e piacere gli inumidì gli occhi. Cortesemente John Somers sviò lo sguardo mentre questi divorava fino all'ultima briciola nel piatto. Quella faccenda delle missioni tra gli Indios non mi è mai sembrata una buona idea, disse proprio quando Toad iniziava a chiedersi se il capitano fosse al corrente dello scandalo finanziario. Quei poveretti non si meritano la disgrazia di essere evangelizzati. Ora cosa pensa di fare? Ho restituito quello che c'era sul conto, ma sono ancora in debito di una bella somma. E non sa come pagarla, vero? Al momento no, però un bel niente. Lei aveva offerto a quei buoni cristiani un pretesto per sentirsi virtuosi e adesso gli ha dato un motivo per scandalizzarsi per un certo periodo. Li ha fatti divertire a poco prezzo. Quando le ho chiesto cosa pensava di fare, mi riferivo al suo futuro, non ai debiti. Non ho progetti. Torni con me in Inghilterra? Qui non c'è posto per lei. Quanti stranieri ci sono in questo porto? Quattro poveri cristi e si conoscono tutti. Mi creda, non la lasceranno in pace. In Inghilterra invece può confondersi nella folla. Jacob Toad rimase a guardare il fondo del bicchiere con un'espressione talmente disperata che il capitano liberò una delle sue grasse risate. Non mi dica che rimane qui per mia sorella Rose. Era vero. Il ripudio generale sarebbe stato certamente più sopportabile per Toad se Miss Rose avesse dimostrato un minimo di lealtà o di comprensione. Ma lei si era rifiutata di riceverlo e gli aveva rispedito, senza averle aperte, le lettere con cui lui aveva cercato di restituire onorabilità al proprio nome. Non venne mai a sapere che neanche una volta le sue missive erano giunte nelle mani della destinataria perché Jeremy Somers, violando l'accordo di reciproco rispetto con la sorella, aveva deciso di proteggerla dal suo stesso buon cuore e di impedirle di commettere un'altra irreparabile stupidaggine. Nemmeno il capitano ne era al corrente, ma intuì che tipo di precauzioni Jeremy avesse preso e concluse che certamente anche lui, in tali circostanze, si sarebbe comportato così. L'immagine del patetico venditore di Bibbie trasformato in aspirante alla mano della sorella Rose gli sembrava inaccettabile. Per una volta si trovava in completo accordo con Jeremy. Erano così evidenti le mie intenzioni verso Miss Rose? Chiese Jacob Toad turbato. Beh, diciamo che non sono un mistero, caro amico. Temo di non avere la minima speranza che un giorno possa accettarmi. Eh sì, lo temo anch'io. Mi farebbe l'immenso favore di intercedere per me, capitano. Se Miss Rose mi ricevesse almeno una volta, potrei spiegarle. Ah, non faccia conto su di me come mezzano, Toad. Se Rose contraccambiasse i suoi sentimenti, ne sarebbe già informato. Mia sorella non è timida, glielo assicuro. Le ripeto che l'unica cosa che può fare è andarsene da questo maledetto porto. Qui finirà per diventare un mendicante. La mia nave parte fra 3 giorni per Hong Kong e da lì per l'Inghilterra. La traversata sarà lunga, ma lei non ha fretta. L'aria fresca e il lavoro duro sono rimedi infallibili contro la stupidità dell'amore, glielo dico io, che mi innamoro in ogni porto e guarisco non appena torno in mare. Non ho i soldi per il biglietto. Beh, dovrà lavorare come marinaio e di pomeriggio giocare a carte con me. Se da quando l'ho portata in Cile 3 anni fa non ha dimenticato come si fa a barare, beh, senz'altro mi lascerà al verde durante il viaggio. Pochi giorni dopo, quando Jacob Toad si imbarcò, era molto più povero di quando era arrivato. L'unico che lo accompagnò al molo fu Joaquín Andieta. Il malinconico giovane aveva chiesto di potersi assentare per un'ora dal lavoro. Si congedò da Jacob Toad con una decisa stretta di mano. «Ci rivedremo, amico», disse l'inglese. «Non credo», replicò il cileno, che quanto a destino aveva intuizioni più realistiche. I pretendenti. 2 anni dopo la partenza di Jacob Toad si compì la definitiva metamorfosi di Eliza Somers. L'ossuto animaletto che era stato durante l'infanzia si trasformò in una ragazza dai morbidi profili e dal viso delicato. Sotto la tutela di Miss Rose trascorse gli anni ingrati della pubertà tenendo un libro in equilibrio sulla testa e studiando pianoforte, mentre al contempo coltivava nell'orto di Mamma Fresia le erbe del luogo e con esse imparava a preparare le antiche ricette per curare malattie note e ancora da conoscere. Tra queste, la senape come rimedio all'indifferenza per le occupazioni quotidiane, le foglie di ortensia per portare a maturazione i tumori e restituire il riso, la violetta per sopportare la solitudine e la verbena con cui condiva la zuppa di Miss Rose. Perché questa nobile pianta cura gli eccessi di malumore. Miss Rose non riuscì a fugare l'interesse della sua protetta per la cucina e alla fine si rassegnò a vedere perdere ore preziose tra le pentole annerite di Mamma Fresia. Riteneva che il possesso di nozioni culinarie fosse semplicemente un di più nell'educazione di una ragazza. Metterla in grado di impartire ordini alla servitù, proprio come faceva lei, era un conto, ma da qui a insudiciarsi con tegami e padelle c'era una bella differenza. Una dama non poteva profumare d'aglio e cipolla, ma alla teoria Eliza preferiva la pratica e si rivolgeva alle sue amicizie a caccia di ricette che prima copiava su un quaderno e poi migliorava preparandole. Poteva trascorrere ore intere e intere giornate a macinare spezie e noci per le torte o gran turco per i pasticci alla creola, a pulire tortore da marinare e frutta con cui fare conserve. A 14 anni aveva già superato Miss Rose nella sua timida pasticceria e aveva appreso il repertorio di Mamma Fresia. A 15 era responsabile dei banchetti nelle serate del mercoledì e quando i piatti cileni smisero di costituire una sfida, si interessò alla raffinata cucina francese su cui la illuminò Madame Colbert e alle spezie esotiche provenienti dall'India che zio John era solito portare e che lei, non conoscendo i nomi, identificava dall'odore. Quando il cocchiere lasciava un messaggio agli amici dei Somers, la busta veniva accompagnata da una leccornia appena uscita dalle mani di Eliza, che aveva fatto assurgere alla categoria di arte l'abitudine locale di inviarsi in tingoli e dessert. La sua dedizione era tale che Jeremy Somers arrivò a immaginarsela proprietaria di una sala da tè, progetto che, come peraltro tutti quelli elaborati dal fratello per la ragazza, era stato scartato da Miss Rose senza essere minimamente vagliato. Una donna che si guadagnava da vivere. Per quanto rispettabile possa essere la sua attività, è destinata a scendere nella scala sociale, pensava. Lei invece puntava a un buon marito per la sua protetta e si era concessa un lasso di tempo di 2 anni per trovare in Cile, altrimenti avrebbe condotto Eliza in Inghilterra. Certo, non poteva correre il rischio che arrivasse a 20 anni senza fidanzato e che rimanesse zitella. Il candidato doveva essere capace di sorvolare sulle sue oscure origini ed entusiasmarsi per le sue virtù. Un cileno non andava Neanche preso in considerazione, gli aristocratici si sposavano tra cugini e la classe media non la interessava, non voleva vedere Eliza alle prese con problemi economici. Talvolta entrava in contatto con imprenditori del ramo commerciale o minerario in affari con il fratello Jeremy, ma questi ultimi erano alla ricerca dei cognomi e dei blasoni dell'oligarchia. Era poco probabile che si interessassero a Eliza, visto che il suo fisico non poteva accendere molte passioni. Era piccola e magra e non possedeva il pallore latteo o il busto e i fianchi opulenti prescritti dalla moda. Solamente a un secondo sguardo rivelava la sua bellezza discreta, la grazia dei modi e l'espressione intensa degli occhi. Sembrava una bambola di porcellana portata dalla Cina dal capitano Somers. Miss Rose cercava un pretendente in grado di apprezzare la lucida assennatezza della sua protetta, come anche l'indole irrisoluta e quella capacità di rigirare le situazioni a suo favore che Mama Fresia chiamava fortuna e lei preferiva denominare intelligenza. Un uomo economicamente solido e dal buon carattere che le offrisse sicurezza e rispetto, ma che Eliza potesse agevolmente manovrare. A tempo debito pensava di insegnarle la sottile disciplina delle attenzioni quotidiane che alimentano nell'uomo la sua fazione alla vita domestica, il sistema delle carezze temerarie come premio e del silenzio sornione per punizione, i segreti con cui privarlo della volontà che lei non aveva avuto modo di mettere in pratica e anche l'arte millenaria dell'amore fisico. Di questo non avrebbe mai avuto il coraggio di parlare apertamente con Eliza, ma poteva contare su diversi libri seppelliti a doppia mandata nel suo armadio che le avrebbe prestato quando fosse arrivato il momento. Per iscritto si può dire qualunque cosa, questa era la sua teoria e in fatto di teoria non aveva rivali. Miss Rose poteva salire in cattedra a proposito di tutte le forme possibili e impossibili di fare l'amore. Devi adottare Eliza legalmente affinché porti il nostro cognome, pretese da suo fratello Jeremy. Lo usa da anni, cosa vuoi di più, Rose? Che possa sposarsi a testa alta. Sposarsi con chi? Miss Rose non glielo rivelò in quell'occasione, ma aveva già in mente qualcuno. Si trattava di Michael Stewart, 28enne ufficiale della flotta navale inglese di stanza nel porto di Valparaiso. Grazie a suo fratello John, aveva appurato che il militare apparteneva a un'antica famiglia, che non avrebbe certamente visto di buon occhio il figlio maggiore e unico erede sposato con una sconosciuta priva di fortuna proveniente da un paese il cui nome non si era mai sentito nominare. Era indispensabile che Eliza potesse contare su una dote allettante e che Jeremy la adottasse, così perlomeno il problema dei suoi natali non sarebbe stato un ostacolo. Michael Stewart aveva un portamento atletico, uno sguardo innocente di iridi azzurre, baffi e basette biondi, denti sani e naso aristocratico. Il mento sfuggente lo penalizzava in prestanza e Miss Rose sperava di entrare in confidenza per suggerirgli di celarlo facendosi crescere la barba. Secondo il capitano Somers, il giovane era un esempio di moralità e il suo impeccabile foglio di servizio gli garantiva una brillante carriera in marina. Agli occhi di Miss Rose, il fatto che passasse tanto tempo per mare rappresentava un enorme vantaggio per chi l'avesse sposato. Più ci pensava e più si convinceva di aver scoperto l'uomo ideale. Ma Eliza, visto il suo carattere, non lo avrebbe mai accettato solo per convenienza. Doveva innamorarsene. Speranze ce n'erano. L'uomo faceva un'ottima figura in uniforme e nessuno l'aveva ancora visto senza. Stewart non è altro che uno stupidotto dalle buone maniere. Eliza morirebbe dalla noia se si sposasse con lui, sentenziò il capitano Somers quando gli rivelò i suoi piani. Tutti i mariti sono noiosi, John. Nessuna donna con un briciolo di cervello sposandosi spera di divertirsi piuttosto di farsi mantenere. Eliza sembrava ancora una bambina, ma la sua educazione era stata portata a termine e presto avrebbe raggiunto l'età da marito. C'era ancora un po' di tempo davanti, concluse Miss Rose, ma bisognava muoversi con determinazione per impedire che nel frattempo un'altra più sveglia le portasse via il candidato. Una volta presa la decisione, si concentrò sull'obiettivo di attirare l'ufficiale, ricorrendo a ogni sorta di pretesto che riuscì a immaginare. Organizzò le serate musicali in modo tale che coincidessero con le occasioni in cui Michael Stewart sbarcava, trascurando gli altri ospiti che per anni avevano riservato il mercoledì a questa sacra attività. Infastiditi, alcuni di loro smisero di partecipare ed era proprio questo lo scopo che lei voleva raggiungere per trasformare le tranquille serate musicali in allegri ricevimenti e rinnovare la lista degli invitati inserendo giovani scapoli e signorine in età da matrimonio della colonia straniera al posto dei noiosi Ibling e Applegreen che stavano assumendo l'aspetto di fossili. I recital di poesia e canto lasciarono il posto ai giochi di società, balli informali, gare di intelligenza e sciarade, e organizzava anche ricercati pranzi campestri e passeggiate sulla spiaggia. Partivano in carrozza, preceduti all'alba da pesanti carri con il fondo in cuoio e coperture di paglia che trasportavano la servitù addetta a installare le innumerevoli ceste delle vettovaglie sotto tende e parasoli. Alla loro vista si dispiegavano fertili valli punteggiate di alberi da frutta, vigneti, campi di grano e mais, ripide coste contro cui l'Oceano Pacifico si infrangeva in nubi di schiuma, e in lontananza il superbo profilo della cordigliera innevata. In qualche maniera Miss Rose riusciva sempre a far sì che lei e Steward viaggiassero sulla stessa carrozza, sedessero vicini e fossero compagni nei giochi a palla e di pantomima. Ma a carte e a domino cercava sempre di separarli perché Eliza si rifiutava categoricamente di lasciarsi battere. «Devi fare in modo che l'uomo si senta superiore, bambina mia», le spiegò pazientemente Miss Rose. «È molto faticoso», replicò Eliza risoluta. Jeremy Somers non riuscì a mettere a freno all'ondata di spese della sorella. Miss Rose comprava stoffe all'ingrosso e aveva destinato due delle ragazze di servizio a confezionare tutto il giorno nuovi vestiti copiati dalle riviste. Si indebitava oltre ogni sensato limite con i marinai del contrabbando affinché non mancassero profumi, rossetti della Turchia, belladonna e cajal per accentuare il mistero degli occhi e crema di perle vive per schiarire la pelle. Per la prima volta in vita sua le mancava il tempo per scrivere, affannata com'era nel circondare di attenzioni l'ufficiale inglese, attenzioni che prevedevano anche la preparazione di biscotti e conserve da portarsi in alto mare, il tutto fatto in casa e offerto in deliziose bottigliette. Eliza ha preparato questo per lei, ma è troppo timida per consegnarglielo personalmente, gli diceva, senza spiegare che Eliza cucinava quello che le veniva chiesto. Senza domandare a chi fosse destinato e rimaneva pertanto sorpresa quando lui la ringraziava. Michael Stewart non rimase indifferente alla campagna di seduzione. Misurato nelle parole, manifestava la sua riconoscenza con lettere brevi e formali su carta intestata della Marina. E quando era a terra, generalmente si presentava con omaggi floreali. Aveva studiato il linguaggio dei fiori. Ma questa finezza cadeva nel vuoto perché né Miss Rose né altri di quei paraggi, così lontani dall'Inghilterra, avevano sentito parlare della differenza tra una rosa e un garofano e il colore del nastro a loro non suggeriva nulla. Risultarono dunque assolutamente vani gli sforzi di Steward per trovare fiori che dal rosa pallido salissero progressivamente in tono, passando per tutte le gradazioni del rosso fino ad arrivare a quello più acceso, quali indizi della sua crescente passione. Con il tempo l'ufficiale riuscì a superare la timidezza e dal silenzio patetico che all'inizio lo caratterizzava passò a una loquacità fastidiosa per chi l'ascoltava. Esponeva con enfasi le sue opinioni morali riguardo ogni minima inezia ed era solito perdersi in inutili spiegazioni a proposito di correnti marine e carte nautiche. Dove riusciva davvero a far bella figura era negli sport virili che mettevano in luce la sua baldanza e la sua buona muscolatura. Miss Rose lo provocava finché facesse dimostrazioni acrobatiche appeso a un albero del giardino e, non senza dover insistere, ottenne da lui che li dilettasse ballando lo sapateado e compiendo le flessioni e i salti mortali di una danza ucraina imparata da un collega marinaio. Miss Rose applaudiva ogni esibizione con entusiasmo eccessivo, mentre Eliza osservava silenziosa e compunta senza fare alcun commento. Passarono così alcune settimane durante le quali Michael Stewart soppesava e misurava le conseguenze del gesto che meditava di fare e si manteneva in contatto epistolare con il padre per discutere i suoi progetti. Gli inevitabili ritardi della posta prolungarono l'incertezza per diversi mesi. Si trattava della decisione più importante della sua vita e per prenderla doveva fare appello a un coraggio più grande di quello necessario a far fronte ai potenziali nemici dell'impero britannico nel Pacifico. Finalmente, durante una delle serate musicali, dopo aver provato 100 volte davanti allo specchio, riuscì a radunare l'audacia che gli si sfilacciava e a rinfrancare la voce che la paura rendeva flautata e acciuffò Miss Rose nel corridoio. «Ho bisogno di parlarle in privato», le sussurrò. Lei lo condusse nella stanza del cucito, presentiva il contenuto della conversazione e si sorprese della sua stessa emozione. Sentì le guance arrossire e il cuore galoppare. Si sistemò un ricciolo che le sfuggiva dallo chignon e si terse delicatamente il sudore della fronte. Michael Stewart pensò che non gli era mai sembrata così bella. «Credo che abbia già intuito cosa le devo dire, Miss Rose. Indovinare è pericoloso, sono qui ad ascoltarla». «Si tratta dei miei sentimenti. Senz'altro lei sa di cosa parlo. Desidero comunicarle che le mie intenzioni sono assolutamente serissime». «Non mi aspetto niente di meno da una persona come lei. Crede di essere corrisposto?» «Oh, soltanto lei può rispondere a questa domanda», balbettò il giovane ufficiale. Rimasero a guardarsi, lei con le sopracciglia sollevate in segno d'attesa e lui con il timore che il soffitto stesse per crollargli sulla testa. Deciso ad agire, prima che la magia del momento andasse in fumo, il corteggiatore le posò le mani sulle spalle e si chinò per baciarla. Paralizzata dalla sorpresa, Miss Rose non riuscì a muoversi. Sentì sulla bocca le labbra umide e i morbidi baffi dell'ufficiale, senza riuscire a capire che cosa diavolo non avesse funzionato. E quando alla fine fu in grado di avere una reazione, lo allontanò bruscamente. «Cosa fa? Non vede quanti anni ho più di lei?» esclamò asciugandosi la bocca con il dorso della mano. «Ma che importanza ha l'età?» farfugliò l'ufficiale sconcertato perché in effetti aveva calcolato che Miss Rose potesse avere più o meno 27 anni. «Ma come osa? Ha perso il senno?» «Ma lei mi ha lasciato intendere, no, non posso essermi sbagliato così!» mormorò il poveretto stordito dalla vergogna. «Ma sì, certo, ma per Eliza, non per me!» esclamò Miss Rose spaventata e uscì di corsa per andare a chiudersi in camera, mentre lo sfortunato pretendente chiedeva mantello e copricapo e se ne andava, senza congedarsi da quella casa in cui non avrebbe più messo piede. Da un angolo del corridoio Eliza aveva sentito tutto attraverso la porta socchiusa della stanza del cucito. Anche lei era stata confusa dalle premure usate all'ufficiale. Miss Rose aveva sempre dimostrato un'indifferenza tale nei riguardi dei suoi pretendenti che si era abituata a considerarla una signora in età. Solo negli ultimi mesi, quando l'aveva vista dedicarsi anima e corpo ai giochi di seduzione, aveva notato il suo magnifico portamento e la sua pelle luminosa. Aveva immaginato che fosse perdutamente innamorata di Michael Stewart e non le era mai passato per la testa che i bucolici pranzi campestri sotto parasoli giapponesi e i biscotti al burro con cui mitigare i malesseri della navigazione fossero stratagemmi della sua protettrice per acchiappare l'ufficiale e servirlo a lei su un piatto d'argento. L'idea la ferì come un pugno in pieno petto e le tolse il respiro, perché l'ultima cosa al mondo che desiderava era un matrimonio combinato alle sue spalle. Da poco era preda del vortice del primo amore e aveva giurato con irremovibile convinzione che non avrebbe sposato nessun altro che Joaquín Andieta.